7 euro e qualcosa, quindi c'è Carolina, l'ordino è... Lega con il vento di che ha già annunciato il controllo di corsa. Sì, allora, se l'hai trovato, è tutto a posto. Non costa niente a farla arrivare, se lo piace. C'è quello. Io stavo leggendo che può essere partito anche quello lì, può essere partito oltre al diodo, può essere partito anche quello, per forza che non funziona. Io voglio andare a trovarlo, dai, io lo trovi dappertutto. Infatti. Non bisogna vedere anche se quello lì. C'è quello lì, io lo cambio e proviamo a vedere. Avrà funzionato. Beh, se quello senz'altro potrebbe funzionare per forza, una volta che io lo cambio, se questa funziona, se quello... Se vuoi andare a testa. Ma quando avevi preso quel microfono l'avevi preso usato o no? Guarda, sai che non me lo ricordo di quello lì, se l'ho preso usato o no, fai a se ne ammetta. Allora ce l'aveva parecchi anni. 5-6 anni ce l'ho, sicuramente. Magari ho preso usato e... E io prima o poi, beh, come tutte le cose, prima o poi qualcosa si chiedono su queste cose, no? O no? Ah, però l'ho bruciato io, Giovanni. Mi sono dimenticato di togliere la batteria, mi sono dimenticato. Ho tagliato i fili, ho tagliato e... La gente è su, tac, e si è accoppiato il diodo. Ah, ecco. Vabbè. E allora la fai già cosa è, cosa non è so. E così, se l'hai trovato in internet, se lo sbloccato direttamente. Almeno c'hai funzionato, capito? Perché ha lasciato così, a vero senza funzionare, boh. Vabbè, un duro la pensa modo suo. Guardo a vedere se riesco a andare alla meta di gioco di... Ma ordino e guardo se riesco a farlo funzionare. Perché sicuramente c'è scritto che se non è solo il diodo, può essere pure che sia questo integrato che c'è. Vabbè. Con il microfono mi sembra che sia meglio l'M24 che l'M25, mi sembra, perlomeno mi sembra più adattabile agli apparecchi, mi sembra che sia così, che sia migliore l'M24. Sì, infatti, è migliore l'M24 perché questo non c'ha integrato, c'ha il diodo di solo e basta, e condensatori e qualche altra cosa. Questo l'integrato non c'ha, invece quello di L2-5 c'ha l'integrato. Infatti, io già ce l'ho, ma dove che l'ho provata? Perché l'ho provata con il 3006 e mi dava solo la portante senza modulazione. Allora ho provato a mettere il 24 e funziona. E funziona con il 3006, funziona anche su quest'ultimo che ho preso, anche su 6009. Senza cambiare niente, è giusto, No, gli attacchi sono precisi, insomma. Gli attacchi sono precisi. Se in caso... Ma se vuoi sì, poi proviamo. Infatti, è l'unico. Proprio si cazzo, dove vanno? È più perfetto, secondo me. Già è bello se c'hai posto la mente e viene bene, ma io per esempio non c'ho posto e non la metto per quello. Sto anche a resa prossima a questo apparecchio, non la metto, va bene con il microfono su questo baracchino, capito? No, io ho la scrivania qua, ho fatto il mobiletto, gli apparecchi sono sopra e gli alimentatori sono sotto, quindi il microfono è a una parte, ha voglia di avere posto. Aspetta, io su questo non so se l'ho provato, faccio il microfono, vediamo un po', su questa non l'ho provata, adesso l'ho provato, dammi 3 minuti che lo proviamo, a vedere un po', su l'esercita pro, provo su quella stampare, su 5005, capito? Sono qua. Ebbetto, come? Cappa, amplificata. Parecchio amplificata. Oh, allora, buona, non distorci nulla, grazie, la portate. E vediamo un po' se c'è qualche rosio, Cosa c'è? Prurita, Il televisore si sente. Si sente parecchio il televisore. Allora, aspetta che provo a ammazzarlo, Vediamo un po'. Adesso scusate, ancora si sente il servitore? No, ma adesso è pulita, silenziosa. Allora va bene così. Vedo un po', questa è l'Esercita Pro, tutto in plastica questo qua è. Si sente un po' nasina, si sente. Cosa si sente? Si fa la voce un po' nasina. Forse faccio un po' vicino. E adesso? Adesso va benissimo. Adesso si sente bene. Perché era troppo vicino, adesso sono a 50 centimetri, là. Va bene, vedo un po'. E questo si è andato a parecchi apparecchi, là, questo microfono. Perché anche con gamma tutto va bene. Sì, fate così. Fate così, funziona benissimo. Bene, un po', però non mi fa. Perché maneggevole il microfono originale, capito? Sottili come il burro, invece questo si avvera sempre il ribasamento, Adesso sono in mano. Sì, no, il basamento sempre devi avere. Io già c'ho il posto qua, quindi. Io non ce l'ho il posto, quello. E so magari la prendo un po'. No, ma mi sta bene. Già mi sta bene anche con lo prosciutto, va. E c'è bene un dico prosciutto, no? Sì, no, già va benissimo. Aspetta che proprio c'ha anche l'eco con questo microfono, Vedo un po'. Ma si sente l'eco, 1, 2, 3, prova. Poco a poco si sente. Poco a poco. Ok, adesso 1, 2, 3 prova. Sì, adesso si sente, la buia. Perché l'eco c'era anche l'apparecchio, capito? C'è il microfono con l'eco e qui l'apparecchio. Però sull'apparecchio non lo vedo. Aspetta che dopo se migliore quello del microfono, quello dell'apparecchio, un attimino, E questo è l'eco dall'apparecchio, com'è? No, non si sente. Non si sente? Strano, No, la voce è normale. Oh, allora non funziona l'eco. Vedo un po', e adesso? Poco a poco si sente. Allora, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, è aumentato. Sì, adesso sì, adesso si sente. Vedo un po', meglio così, meglio normale, esce più bene, no? Sì, normale esce più bene. È migliore, dai, più pulita, dai, rimane. Sì, infatti, rimane più pulita, sì. Là rimane più forte, no, qua rimane più pulita. Sì, perché c'è la presentazione, quello. Ma adesso non mi interessa, capito? No, se no me lo tengo, questo è il microfono, questa è la barca di 4 inch. Questo l'avevo preso, dunque, alla GBC, ma sono i spadani. Ne avevo preso 2, uno a Vittorio Luna Rossa e uno a me. Allora costava 200 euro, 200 lire l'avevo preso. Ma il microfono? Sì, dalla GBC l'avevo, 2 l'avevo preso, uno per me e uno per Vittorio Luna Rossa. Da allora costavano milioni di lire costavano. E costavano parecchie, la gara adesso costano di meno. Sì, invece costano di meno, sì. E radico, ne ho visto uno in internet. Però è usato, è tutto un po' macchiato, boh. E ne volevo 80 euro. Lì è la cifra. Sempre lì. Aspetta che cambia, aspetta. Eccoci qua. Adesso sì. Oggi ti sento anche più bene. Ecco, l'originale, cazzo. E poi la nuova voce che... Oh, quattro fatti. Sì, no, va benissimo, va, io ho voglia. È bello, ma è bello perché c'ha la, il disco ha ragione. Oh. A me invece piace molto con il blu. Con il blu è più bello. Quello che c'ho io, quello è molto più. Infatti anche a me. Tanto, prima non mi piaceva perché io l'avevo da prima e l'avevo venduto. Invece adesso mi è tornata a venire lì a riprendermi e me la sto preso. Perché quelli grazie mille nuove sono un blu, quelli sono bellissimi, là, è un colore diverso. Sì, infatti, arancione, due anni fa blu, due anni fa invece di arancione. E allora, sono le cose, 6009, che come estetica è preciso, e questo è preciso 6009, tutte le stesse caratteristiche, non c'è niente in più e in meno. Solo che il disco è arancione, è tutto lì, però è preciso come la grandezza, tutto preciso, capito? Hanno cambiato solo la marca. Sì, infatti così, solo la marca gialla, e va bene, ma io sono annegoppiato. Chissà magari perché lo fanno, ecco, per i, magari forse per i corbisti, a farmi a cambiare le marche da, una, da uno all'altro. Tutto a fare le soldi. Infatti. Sono precisi, perché una cosa anzi cambia solo la scrittura, perché c'è scritto qua, c'è scritto 10 e 11, mentre che là invece su 6009 c'è scritto solo della 27, basta, il nome della Parigi. Sì, là l'hanno fatto più stretto, l'hanno fatto. E lì, per andare sul 10 e 11 bisogna che sia una piccola modifica devi fare. Per forza, perché quando prendi questi apparecchi lo mettono in 27 loro, capito? Mi mettono il cassetto, può compiere e magari una cazzata a farlo, come mi sono dicendo Marco, per che Marco l'ha fatto, ed è una cazzata, ma cosa deve fare, non c'è l'aria per andare là. Allora, a Buddha, ha dato dei giambi uno. E adesso se glielo portano la cosa sono presi, no? Andiamo a vedere Gianmarino, se ho i soldi ma lo prendo, perché ho qualche spesa ciò al prossimo mese. Peccato, non è che sto senza mangiare per prendermi la parigia, no, saranno. Infatti, non saranno tutti i gaisetti. Allora, cazzo, mangiare più importante la parigia, perché la parigia va, ma si vede che e non ce l'abbiamo, già che li abbiamo adesso. E a voglia, cazzo, non so chi c'è, se non va bene, a voglia se funziona bene. E allora, se avrebbe funzionato, vabbè, ma già funzionano tutti, per cui... E non sono fenomeno, non è attaccato più. Ce l'ho qua, dalla di fronte, mi spento, che mi abbai bene. Oh. non ti prendere il titolo. No, certo, non me ne prende, che è sciurato. Ma gli ha dato l'accento. E lo vedo dentro la cazzola. Io vedo dentro la cazzola, per davvero, è zappato, come quell'altro, il 2000, anche quello in digitale, però è bello anche quello, poi piccolino, piccolino, sembrava un coso, cazzo la mano, questo, anche quello dentro la scatola, che gli tratta. Lasciare a rugaccio che è meglio. Ah, magari l'ho preso per mettere in macchina quel piccolino, capito? Perché piccolino magari c'era la risposta da mettere, però un po' ho pensato bene, come lo vado a fare? Tanto la macchina uso poche mesi, per cui non la metto, e non l'ho più messo. In questa macchina non ho mai messo un baracchino, mai. E cosa ne fai in macchina? Ormai, non più nessuno. Ah, c'è uno che andava, avanti ieri ne ho visto uno con un'antenna ronga. Certo. Magari non c'hanno l'apparecchio, magari c'hanno l'antenna, la fatica di camandina e la rilassata, capito? O darci pure che abbia anche l'apparecchio, ma no, l'accendo. C'è uno che viene dal Ghero, mi ricordo chi è, quello ce l'ha sempre in macchina, va la bricola a prendere il pizzo, capito? Non c'è male. Io ho trovato uno di portatore che ce l'aveva attaccata dietro nel camioncino. Dietro, attaccata vicino alla cabina, attaccata al cassone. E c'aveva una frusta nera, di quelle lunghe. Quelle antenne sono buone. E come quella che ho io in magazzino, quella è la frusta nera. Non muore mai quella antenna, è buonissima. Cazzo, la frusta nera. No, non esiste più però. No, non esiste più, però io ce l'avevo una di quelle lì. Non c'erano più i cani. Mi pare che ci sia cacciato da Franco con la frusta nera. Sì, altra cacciatera giù da Franco. Una di apparati strappettate, anche i capi, tutte strappettate, ne abbiamo poco antenne in casa, per carità. E antenne che mi aveva veduto anche lì quando mi aveva dato gli apparecchi, tutti gli apparecchi, capito? E dopo se li ha ripresi. No, io giù in magazzino non ne ho più di antenna, c'ho soltanto per la Grand Prix, che giù in magazzino c'ho con la Grand Prix, non faccio altro io se in magazzino. No, io come antenna ho quella che avevo sulla Renault, che l'avevo messa sullo sportellone di indietro, era sempre attaccata, poi l'avevo tolta, l'avevo messa in magazzino, ancora in magazzino, e Franco mi ha preso il capo giù, il capo, capito? Perché sono solo il basamento della stella e basta. Le altre ce li ho qua, c'ho quella della Sigma e quella della Lem, insomma due o tre, poi la giunta della Sigma che alza 2 metri. Quelli sono troppo lunghe, cazzo, passi sotto un albero e te la piega, cazzo, no, quando è troppo lunga, no, non mi sono mai schiacciato, ce l'avevo una, ma lo lascia, capito? Era un bel lungo, perché invece questo con la sua radio mi sembra che era 50-60 centimetri, una cosa del genere, e c'è il magazzino. Solo che c'è solo l'antenna con basamento, però il capo non ce l'ho. Io già ce l'ho qua. Per il capo non lo so se ce l'ho, mi pare di sì. Ma ce l'ho attaccata al coso qua. Aspetta un attimo, Gio Maria. E chi è? È un po' basso, sì, non ho capito chi sei. E chi sono io? Non lo so, se non me lo dici tu. Ormai ho preso tutto il pronostico delle modulazioni. Così che si non ce l'ha fatto, forse la vecchiaia, vai. No, non è la vecchiaia, vecchio G, così che dovresti ricordare un po' di memoria quello che dovresti fare. Sto pensando, va pensando, che può essere, certo, ormai 54 anni, ho pensato che tutti i colossati delle modulazioni. Scusa, ora ti stanno chiamando al telefono, Giovanni. L'ho capito, cosa hai detto? Chi è Giovanni? C'è un amico che ci avevamo parlato, però non lo sento bene, vedo un po' se riesci a capirlo tu. Avanti l'amico, fai farito. Funziona l'amico che stava parlando? Sì. Se è voluto... No, chiamavano stato unico. Se è voluto entrare così, la saluta. È sembrato o quello che alla fine sulla marina di Sorso, no. Mi c'è sulla strada di Sorso, mi sembrava lui, boh, non lo so, senza testa, non mi ricordo. No, io non la gentesimo, non so neanche dove era. No, sto dicendo io, mi sembrava lui. Perché abbiamo parlato l'altra volta, te ricordo. Vediamo un po' avanti di... Spiegaci chi sei, dai, è sparito, avanti un rebasante e se ne è andato, però sono riuscito a capirlo. Vabbè, se vuoi entrare già sei mio nome, se no pazienza. È quello di Calchia. Magari sarà qualche vecchio che vive pure tu. Ma come fa a ricordarti tutti le modulazioni? Non è possibile. Sì, se il vecchio ci vive già si rammenta. Quasi memoria si rammenta. Magari lui si rammenta di me. Magari lui è più giovane e si rammenta più di me. Infatti. Se si chiede Dio. Vabbè, se vuoi entrare già sei mio nonno. Oh, mi sembrava quello lì a me, va. Già sono qua e vorrei rientrare e ogni tanto ci ha fatto qualcuno, vai, almeno mi sentiamo se va. Se vuole entrare se meno di noi adesso cominceranno a entrare, se non sono ancora in vacanza. Quando comincia a fare a cambiare le temperature, magari allora qualcuno che non scende a mare, allora non fa altra cosa che fa, attenzione a Parigi sempre che si abbia quell'intenzione, perché non sono tutti vabbè. Da andare, comincia a fare più freddo, cominceranno a entrare. Io sono su 23. Ah, io buro. Io buro sono su 23, quindi. Se vuoi entrare, se mi no. È quello che dico anch'io, Sa, se mi no che per cui. Sì, che se voglia accendiamo, dai che non ce ne voglia, non ce ne voglia, lo spegniamo e rimane spento sto. Io ti grido che rimane spento, se no viene in gara. Chiudi che io, vediamo un po' attento l'amico, vabbè, ha voluto dare la battuta. Mi sembrava ancora riconosciuto, che lo conosceva, però non mi ricordavo chi era. Però, se vuoi entrare già siamo qua. E così è tutto. Infatti, se vuoi già entrare, già c'è meno di lui. Quindi, già siamo qua, già non ci perdiamo. Ciao Maria. Eccolo qua, vive. Sono Antonio, Alfa Delta. Me l'ho immaginata, Me l'ho immaginata che non tu mi lo stavo spiegando, attore. Casa. Buonasera, ben sentito. E beh, come va? Tutto bene? Sì, grazie a Dio, cazzo. Ma se sta parato, c'ho messo un microfono, l'ho amplificato e data, c'ho una stella e si esce così, capito? Tanto per passati 10 minuti o quarto d'ora. Sono andato del mondo, già lo sai, no? Io l'ho 76, ho smesso. Ma infatti, ma che noi facciamo così? Oh, anche siamo un po' stanchi, ci siamo truffa in frequenza, per cui però ogni tanto la passione c'è sempre. Ogni tanto a quest'ora noi dalle 7 fino alle 8 meno 20 la accendiamo, non tutte le sere, qualche volta ci assentiamo anche se abbiamo cose da fare, ma se no siamo sempre qua dalle 7 in poi, capito? Sì, sì, sì, no, io stavo ascoltando, stavate parlando tutte e due, mi avete detto che lui sembra figa, ho detto tra me, ho detto questa è San Gio Maria, ha detto allora già i due, infatti per quello che sono entrato, no, io sono l'ascolto comunque, parlate tranquillamente che mi sto facendo una cosa a casa. Fai, aspetta, ci passa attore, ma lo senti? Io lo sento, è abbastanza forte anche, lo sento. Ha voglia. Se sulla strada del Sorso già lo sento. Sì, io sono vicino a Sorso, 5 km da Sorso. E ha voglia, ma mi arrivo benissimo. Santiago 8, mi arrivo. Santiago 8, e Radio 5, perfetto. Stasera non so se era Russi, quelli che stavano arrivando a Roma, stavano arrivando in combinazione, un casino della Roma, si capiva cosa. E fatto a te che arriva 8, a me mi arriva 5, con un po' di QRM, forse tu sei propizio più vicino della varia da lui, capito? Ecco perché ti arriva più poco. Santiago 5 arriva a me. Un po' di QRM ce l'ho anche io, ce l'ho. A me mi arriva più forte, forse perché sono nella parte più dritto da lui. Se non mi sento io, parecchia, non ci posso fare niente, non è che mica devo mettere sapete per andare a segnare. Se non va, se no se la mia colpa è la parecchia. Infatti, tanto da arrivi più bene, dai, a me invece mi arrivi più scarso, in mezzo a quel re, però riesco a capirsi, dai. Sì, Santiago 5. Ma dovete sollevare l'antenna, perché non hai sollevato l'altro po'? No, l'antenna è c'è un palo. Faccia così, so, anche se arriva più per perché lì lavare se più dritto va. È così, Gio Maria, capito? Cioè di più non posso sollevare, e sono già al massimo, la terra si mette qualcosa, tu immagini un po' di Dio. Deve andare bene per forza, deve andare bene, perché ho visto dei controlli, ho visto che andava bene. Ho già parlato con un portogallo, spagnoli, e tutto quanto, ho visto una normale, tutto normale qua. Ma già lo sai che la frequenza com'è, magari proprio trovi un altro come può essere attore, da me da attore, attore magari il lineare è più perfetto, mentre invece se io sono dall'altra parte, siamo tutti giù alla ferrozza, lui sulla presella, io sono dove c'è la corda, dice la farmacia, e magari io sono più coperto di sole, capito? Ecco perché mi arrivi con molto quel rende, però riesco a capire abbastanza bene, capito? Lo so, dipende dalla posizione di uno arriva, va bene, ok, buon proseguimento, che mi stanno mandando un messaggio che non posso, ok, ci sentiamo dopo, casuale, buon proseguimento a tutti e due. D'accordo, dai, buon proseguimento, ma faccio piacere e tutto, dai. Già lo sai, anche ora siamo sempre qua, per cui fate sentirti spesso, e fa piacere, vai tu. Ok, ci risentiamo alle prossime allora. Ci sentiamo. Ok. Ok, è un vecchio CD, capito, per cui... Ma piacere ogni tanto a sentire qualcuno. E già lo credo, ogni tanto ci ogni tanto già si fa di sentire qualcuno. Da due anni che ci parlavamo molto spesso, certo, quasi tutti i giorni, e vabbè, capito anche queste cose, però fa sempre piacere ogni tanto a farsi sentire, tutto lì. E ok, Gian Mario. E così, purtroppo, a sentire tutti quanti, no? Entreranno gli altri. Se ce l'hanno qualcuno già entra. Infatti l'altro giorno ho trovato il San Giovanni Pascoli, era Buzzati di Rubarra, a Torre Cioffea, ti ricordi Torre Cioffea? Sì, già. Ma te, invecciato, ho ancora giovane rimasto. Ah, ti credo, sì, beh, dati vedi un po' invecchiato, però non ho più intanto. Tu per Giulia sta bene, dai. Certo, gli acciacchi ci sono, però ho visto un cammino abbastanza tranquillo e per cui ci siamo salutati e per cui ha fatto il piacere anche lui, da lui, capito? Oh, vabbè. Ma in pensione anche lui? È da parecchio pure. È da parecchio, mi sembra che sia più grande di me anche, mi sembra, non lo so, però già in pensione. Vabbè. Anche lui ci sarà, con gli amici, piace un po' di parietta. Lui abitava a Monte, di fronte alla chiesa, dove avevano riparato quelle case popolari, capito? Lui abitava lì prima, adesso abita lì al Sacro Cuore, quelle case lì abita. Non è fatto a Ciambato, quartiere a Ciambato. Vabbè, già bello lo stesso. Perché gli avevano mandati via che dovevano riparare quelle case e li hanno tenuto lì al Sacro Cuore e sarà sempre al Sacro Cuore, penso io. Va bene, cioè, va bene lo stesso. E così è. Vabbè, so mi sembra che chiudo io, chiudo solo, dai. Ci sentiamo magari domani se coincide. Grazie la chiacchierata, mi ha fatto piacere, saluto di casa. A risentirci, so. E io Gian Maria, alle prossime, ok, ciao Gian Maria, ci risentiamo.